stata usando questo tool Mind Manager che risparmia un po' di tempo di editing a fine di presentazione e permette di presentare un po' con una mappa, insomma, gli concetti. Sto seduto così almeno riesco a usare sia, per mostrare sia il codice e anche la presentazione. Allora, beh, io sono Castaldi Gian Andrea, faccio parte di un team che applica XP in Quinary, XP Layers. Qui è il mio indirizzo se poi volete contattarmi. Allora, l'obiettivo qui praticamente è appunto è presentare prevailer, diciamo, e i vantaggi pro e contro, i casi in cui si possono utilizzare. Allora, come introduzione, vediamo qui, oltre a prevailer, anche poi alla fine il fenomeno prevailer si è diffuso anche in altri linguaggi di sviluppo, perciò parlo di libreria di persistenza in generale. Praticamente tutti i linguaggi di programmazione object-oriented mettono a disposizione ormai una libreria per la serializzazione di oggetti in stream. Ci sono due aspetti interessanti da considerare. Nel momento in cui tu scrivi un oggetto in stream, vengono scritti tutti gli oggetti referenziati dall'oggetto stesso e vengono mantenute le relazioni. In questo modo è garantito che nel momento in cui tu deserializzi l'oggetto, riavi un oggetto identico a quello serializzato all'inizio. A partire, diciamo, da questa disponibilità che danno i linguaggi di programmazione, Klaus Westerfeld ha pensato di fare una cosa del genere. Ha detto: se si aggregano gli oggetti persistenti di un'applicazione in un unico oggetto, quindi è possibile salvare uno snapshot dei dati, quindi tutta la base dati, semplicemente scrivendo questo oggetto in un file. E seconda cosa è se si rappresentano anche i comandi, quindi le azioni di modifica del mio sistema come oggetti, è possibile salvare anche loro su un file di command log o averli eseguiti e quindi implementare un sistema di recovery che semplicemente resegue i comandi successivi all'ultimo snapshot preso. Questa idea appunto è stata implementata in diversi linguaggi e quindi si basa fondamentalmente sulla serializzazione degli oggetti persistenti e dei comandi eseguiti su di essi. Il principale vantaggio per cui noi lo consigliamo, dove è possibile usarlo, è che fondamentalmente lo sviluppo tendenzialmente diventa molto più agile. Cioè per aggiungere e modificare funzionalità ci vuole meno tempo e meno codice e le logiche di business sono più facili da rifattorizzare e da testare. Allora, qui illustro un po' quello che è il design, diciamo, che più o meno hanno tutte queste librerie di persistenza, quindi prevailer e diciamo Portman nei vari linguaggi. Fondamentalmente c'è sempre ci sono gli oggetti persistenti e system, che sono gli oggetti che implementano le logiche di business della mia applicazione e contengono i dati che voglio salvare. Questi oggetti devono sottostare a dei vincoli. Appunto, ci deve essere un oggetto system che li aggrega tutti, che è quello che poi viene salvato nel momento in cui io prendo uno snapshot. Devono essere strutturati in modo tale che un comando partendo dal system possa agire su tutti gli oggetti, cioè possa modificare, apportare la modifica che lui crea da fare sul system. E poi naturalmente deve rispettare le condizioni imposte dal linguaggio perché questi oggetti siano serializzabili. Poi c'è il persistent, che è l'oggetto che ha la responsabilità di, in fase di startup, determinare quello che è il system di partenza. Quindi in fase di startup lui controlla se c'è uno snapshot su file system, e in quel caso lo carica, o deve utilizzarne uno appena creato. Una volta che il persistent ha determinato questo sistema di partenza, resegue tutti i comandi contenuti nel command log successivo a quello snapshot. Quindi nota che io ho installato il persistent, la mia persistenza, tutti i miei dati persistenti sono caricati in memoria, in RAM. Poi c'è l'abstract command, che praticamente rappresenta un'azione sul dominio, un'azione di modifica sul dominio, e quindi c'è un metodo che esecuta un system che poi quando è implementato apporta la modifica. Quindi ci sono n command, dove ogni command implementa un comando di modifica che definisce l'execute. Poi c'è il client, che praticamente è l'assemblatore di tutta la mia applicazione, che fondamentalmente ha tre responsabilità: istanziare il persistent in fase di startup, quindi creare su tutta la persistenza; invocare periodicamente il salvataggio di uno snapshot sul persistent per evitare appunto di dover eseguire tutti i comandi degli ultimi 7 anni, ma semplicemente se uno ogni notte può prendere uno snapshot è l'ideale. E poi creare i comandi e passare al persistent in modo tale che siano eseguiti e salvati. Io ho fatto due sequence diagram per chiarire meglio il concetto. Allora, in fase di inizializzazione, quindi il client, non so se si vede. Beh, potrei anche allora. Fondamentalmente il client in fase di startup istanzia il persistent, quindi dopo lui apre lo stream sull'ultimo snapshot, lo legge e poi apre uno stream sul command log e itera in modo tale da leggendo dallo stream del command log, leggendo tutti i comandi che sono stati eseguiti dopo l'ultimo snapshot e li riesegue passando il system che ha appena caricato. In questo modo alla fine io ottengo un system che praticamente è identico a come era prima dell'ultimo shutdown che è stato fatto. Ok. Questo qui è un esempio di esecuzione di un comando, nel momento in cui il client ha un comando da eseguire, istanzia il command, invoca l'execute passandogli il comando al persistent e questo prima lo esegue passandogli il system e poi salva lo stream, salva nello stream il comando in modo tale che possa essere eseguito se necessario. Allora, in Java, che è fatto da Klaus Westerfeld, fondamentalmente il system si chiama prevalent system, quindi deve essere serializzabile come tutti gli oggetti che aggrega. Il persistent è diviso in due classi, c'è una factory che praticamente ha il metodo che prevede per istanziarlo e poi c'è prevailer che ha invece che sono a 5 metodi. Ha il pre-execute per eseguire una transazione, eseguire una query di tipo sensitivo, cioè una query che io voglio eseguire nel caso in cui voglio essere sicuro che durante la query non venga modificato il system, quindi non sia eseguita una transazione, e poi c'è un metodo execute transaction with query che pensa sia una query che una transazione. E poi c'è il metodo prevalent system e take snapshot che è quello per avere il sistema che prende uno snapshot. Poi c'è l'abstract command che non è uno solo ma sono tre, quindi c'è una transazione, una query, una transaction with query. Poi adesso vi faccio vedere l'esempio con Java con prevailer. Allora. È un'applicazione abbastanza semplice mirata a mostrare diciamo, come funziona Prevedere. È un'applicazione, è un account tracker, cioè un'applicazione per tracciare le operazioni fatte su un conto corrente. Quindi io ho si usa da console e ho la possibilità di effettuare un deposito, effettuare un prelievo, effettuare un trasferimento, poi eventualmente chiedere il saldo, chiedere la lista di movimenti, poi stampare questo app, uscire e prendere uno snapshot. Quindi in questa directory vengono salvati sia i miei snapshot che i transaction log. Quindi se io inizio a eseguire un'operazione, chiaramente viene prevedere, inizia a scrivere insomma, il mio transaction log. Dopo io posso fare altre operazioni. Praticamente il file viene completamente scritto, poi se a un certo punto prendo uno snapshot viene salvato un file di snapshot che dopo e quindi le transazioni scritte nel primo file non sono più diciamo, lette, si parte direttamente dallo snapshot. A livello Ma che differenza c'è? Cioè, tu transazione e comando è la stessa cosa? Cioè... Sì, io diciamo che prevede, prima si chiamavano command, adesso si chiama transazione, diciamo, il concetto è quello, un comando di modifica adesso ha fatto rename, comunque ne prevede uno, si chiamavano command, adesso sono translation, comunque il concetto è quello, sono azioni di modifica, diciamo, sul sistema. Qui account, quindi account è il mio system, cioè è quindi rappresenta la classe che aggrega tutti i miei oggetti di business, quindi da cui io esercito tutte, diciamo, le logiche che ho implementato, che offro che il sistema offre. In questo caso account aggrega fondamentalmente solo due oggetti, cioè un integer che è il saldo e una lista di stringhe che sono le descrizioni dei movimenti che posso stampare. Oltre naturalmente ad avere, diciamo, aggregare, offre dei metodi per compiere le operazioni. Qua c'è account tracker, che invece è il client, cioè l'assemblatore, cioè quello che mi tira su tutto, diciamo, il mio sistema, che quindi ha tre responsabilità: istanziare e prevedere in fase di startup, prendere lo snapshot quando mi viene richiesto e istanziare i comandi e farli eseguire a prevedere quando è necessario. Allora, qui c'è proprio il main che istanzia un account tracker e poi entra in loop. In fase di istanziazione dell'account tracker vengono fatte fondamentalmente tre cose, ok? Vengono salvati gli stream di input e output per poter interagire con l'utente e poi viene utilizzato prevailer per tirar su la prevalenza. Io qui istanzio un account nuovo, vuoto, lo saldo a zero e nessuna descrizione, poi dico alla prevailer factory, creami prevailer, una volta che l'ho ottenuto gli richiedo indietro il prevailing system, cioè il mio sistema, che è sempre, e quello che mi torna va a sostituire quello che avevo inizializzato inizialmente. Questo perché lui qui dentro va a vedere se su file system c'è uno snapshot, se c'è carica quello, se non c'è lui, diciamo, utilizza quello che tu gli hai passato vuoto. Qui inoltre vengono letti tutti i transaction log successivi a quello snapshot e quindi io qui da questo punto in poi diciamo, ho tutta la mia persistenza, quindi tutta la base dati in memoria. Qui poi è più legato, diciamo, alla come ho implementato il sistema, siccome qui ho una serie di comandi che l'utente dichiara di voler eseguire inizialmente, poi mi dà le informazioni per eseguire, poi io lo eseguo, qui vengono istanziati dei command builder che poi sono in grado di istanziare i relativi comandi, quindi ho fatto due interfacce che ho introdotto io, uno è command, che praticamente si mappa uno a uno con l'interfaccia transaction, che praticamente da executone invece di prendere un oggetto generico system prende in modo specifico il mio account. E inoltre io dichiaro quando la implemento se questo comando è un comando di tipo persistente, tipo fare un deposito, o è un comando non persistente, tipo quando chiede il saldo, che non interessa che sia reso persistente. E poi c'è un command builder, che è un builder di comandi che praticamente a partire dalla richiesta che l'utente dichiara di voler fare, dice se matcha con il comando che lui sa istanziare e poi offre un metodo create che, prendendo i due stream di input e output, chiede le informazioni all'utente per poi creare il comando e lo crea. Quindi con questa due interfaccia, l'account tracker, dopo che nel costruttore quindi ha istanziato tutti i builder, lui entra nel metodo loop e qui praticamente inizia a eseguire una volta l'execute request. Nell'execute request si vede come viene, diciamo, l'esecuzione del comando. Il comando praticamente inizialmente gli viene chiesto all'utente che azione vuole compiere. Ok? Poi itero su tutti i builder che ho istanziato e una volta che trovo il builder che istanzia il comando richiesto, glielo fa istanziare passando i due stream. Una volta che l'ha istanziato, io chiedo, vi verifico se il comando è di tipo persistente, allora lo faccio eseguire a prevedere. Quindi gli dico prevedere, esegui questo comando prevede qui prima esegue il comando e dopo diciamo, scrive il comando sul file di transaction log. Qui c'è questa prevede transaction che fondamentalmente è un adapter fra la transaction che richiede prevailer e il mio command che ho l'interfaccia che ho introdotto io. Sono praticamente equivalenti. In questo modo ho reso la dipendenza della mia applicazione rispetto a prevailer minima, cioè praticamente il mio sistema dipende da prevailer per tre linee di codice. Questo diciamo, poi al massimo più avanti spiego anche il motivo per cui comunque tendenzialmente si preferisce. Comunque riduce molto la dipendenza da prevedere. Quindi se il comando è persistente, eseguito in questo modo, se non è di tipo persistente, allora lo posso eseguire direttamente io. Quindi io, come diciamo, l'account tracker, che comunque ha un'immagine, può chiedere l'immagine di sistema prevedere, in questo caso invoca direttamente il command, invocando l'execution e passandogli diciamo, il system. Qui se invece l'utente ha richiesto di prendere uno snapshot, io dico a prevedere di salvare uno snapshot. Un esempio di comando, ad esempio il comando di deposito, allora il builder, partiamo dal builder, è molto semplice, cioè nel comando di snatching io verifico se la richiesta è una richiesta di deposito, poi nella create interagisco con l'utente per chiedere informazioni e alla fine istanziare un comando. Il comando fondamentalmente salva i due fields che sono passati, cioè passa i due argomenti nei relativi fields e poi nella execute on, cioè quando prevede invoca l'esecuzione del comando, io modifico il system, in questo caso semplicemente richiamo la deposit su account, apporto la modifica sul system. Questo qui patente è il metodo che verrebbe rieseguito, cioè viene rieseguito ogni volta che io tiro giù il sistema e poi lo ritiro su, se la mia istanza di deposito diciamo, non è stata è successiva all'ultimo snapshot preso. Ok, diciamo che se qui avete già delle domande, meglio, siccome mi rendo conto che magari diciamo, è un po' articolato, è meglio se me le fate subito, così almeno eventualmente chiarisco i punti oscuri. Ok, il sistema gestisce un solo account, che sarebbe il sistema. Sì, diciamo che in questo caso qui il design che ho fatto io prevede un solo account. Infatti, ok, se, nel momento in cui il cliente mi dice ok guarda, io non voglio che mi gestisca un account, voglio che mi gestisca n account, diciamo che la classe account rimane così com'è, solo che nell'account tracker praticamente invece di avere come come system non uso più account ma uso un oggetto bank che mi aggrega in account dentro a una mappa, una lista di account. Quindi semplicemente shifto account giù di livello e il mio system di riferimento diventa un qualcosa di più grande. Però quindi, bisogna cambiare i comandi poi. Sì, chiaramente in quel caso, nel caso in cui io passo da avere un account tracker a avere tra virgolette una banca, che con n account, io in quel caso lì devo qui supponiamo che il mio sistema diciamo così prevede rimane identico in questo modo, io mi posso spostare da un conto corrente all'altro e poi mantengo gli stessi comandi. Qui il mio comando qui non riceverebbe più un account ma riceverebbe una bank e poi dentro ad esempio se riprendiamo il deposit, io qui oltre a prendere la montagna da depositare e il commento prenderei un altro argomento che sarebbe diciamo, il numero di conto corrente e poi nell'execute on c'è una bank e dico prima bank get un numero conto corrente, poi una volta che ho l'account faccio invoco account deposit passandogli i due argomenti che ho ottenuto. Chiaramente qui il gioco vale nel momento in cui questi metodi qui execute on li mantengo piccoli, perché tendenzialmente le logiche di business sono importanti tenere sugli oggetti di business, quindi cioè, il bello di prevedere, ok, forse che è una cosa un po' particolare che rispetto sì, non solo voi, anche altri sistemi di persistenza di cui ha parlato Ugo offrono queste potenzialità, però il bello di prevedere è praticamente che le logiche di business, cioè quindi sono completamente inconsapevoli che c'è un sistema di persistenza, ok? Quindi se io uso i Berkeley DB ad esempio, lì cioè io so che il mio sistema sa che sto usando un Berkeley DB, ok? Qui non c'è questa consapevolezza, quindi se a un certo punto il cliente mi dice guarda ok, comprendere ci sono diverse che sono meno, però io adesso vorrei passare una presa razionale perché comunque non mi fido di dati di senso dati. Cioè qui comunque io commento le tre righe che usano prevede, sono tre righe di codice, e ho un sistema completamente volatile, quindi dove non c'è nessuna, non dipende da nessuna persistenza. Quindi io da quel momento in poi posso iniziare a modificare il mio sistema per inserire un database razionale. Okay? Quindi non devo svincolare, cioè svincolarlo un sistema implementato utilizzando prevedere, svincolarlo da prevedere ci si impiega un attimo. E poi da quel momento lì poi tu inizi a modificarlo per usare un database razionale. Forse l'unica alternativa per avere sul primo tipo è il database, quello che praticamente ti offre le collection che sono in modo trasparente persistenti, cioè io non so neanche che sono persistenti. Però sta cosa non è tanto di prevedere ma del design a comandi, insomma. Basta che ci metti davanti un design a comandi e lo fai con qualsiasi altro sistema. Sì, diciamo che in questo caso qui, sì, diciamo che qui naturalmente è anche il vantaggio appunto che i comandi essendo serializzati poi tu ti è garantito che i comandi comunque se li giù tutto poi tu restarti l'applicazione e siamo se tu ci metti Berkeley, chiaramente se tu esponi l'interfaccia di Berkeley ma basta che metti l'interfaccia davanti e ci parli a comandi e comunque lo puoi togliere perché ci va a caldo qualche sì, diciamo che o lavori a basso livello, cioè o lavori completamente fuori, in questo caso qui, quindi i tuoi oggetti pensano di essere, diciamo che la persistenza è fuori, quindi sono inconsapevoli perché è fuori, o gliela metti sotto, diciamo, nelle collection che usano, quindi loro pensano di usare una lista, che è una lista volatile, invece poi è persistente. Diciamo i due punti in cui ti puoi agganciare per renderlo, diciamo, indipendente, per avere un sistema che è inconsapevole del tipo di persistenza che stai usando, è uno di questi due qui, diciamo così. Sì, ok, è chiaro? C'è una cosa che faccio ancora un po' di fatica a capire. Deposit è un metodo di account? Sì, deposit è prima, diciamo, a livello di logiche di business, account è un oggetto che praticamente offre il metodo deposit, quindi diciamo che account come conto corrente ha questi tre metodi che sono 1, 2 e 3, che sono tre metodi con cui io posso fare azioni sul conto corrente. Poi, siccome l'account tracker per ogni azione di modifica, questi tre, deve avere un oggetto command da eseguire, allora c'è anche un oggetto command deposit che praticamente mappa, cioè nella sua execute semplicemente invoca il deposit di account. Okay. Posso dire una cosa? Cioè i metodi di PIS sono metodi normali, cioè nel senso che tu li chiami direttamente, lui non è. Però non posso usare quello, cioè, normalmente usare un campo, no? Non posso usare un campo in questo caso. Cioè la questione è che se tu chiami il metodo direttamente è un oggetto normale. Se tu passi per lui, è un comando che chiama quel metodo e siccome il comando viene loggato allora diventa persistente. Però i metodi di questi sono normali. È il comando che è il meccanismo, sta sui comandi, no? Sull'oggetto. Ci sono altre domande da chiarire su questa parte? Ciao. Ok. diciamo che l'uso di prevedere comporta un po' di dettagli implementativi. Allora, chiaramente i comandi devono modificare solo gli oggetti dell'argomento system, cioè al comando l'oggetto comando io passo un system. Ecco, loro le azioni di modifica le devono fare sul system, in questo caso account, o sugli oggetti contenuti nel system. Nel caso, se io lo faccio dentro una banca, io faccio get account e modifico l'account. Non devono essere toccati, cioè non devo fare delle modifiche sui field dei comandi o variabili locali, pensando che poi vengono rese persistenti, perché chiaramente se il comando viene rieseguito, ok, questi oggetti, questi field che il mio comando ha, sono slegati dal il sistema realmente, il mio sistema di riferimento, sono slegati perché non sono serializzati insieme. Uno è serializzato su un file di command log e uno è serializzato su un file di snapshot, vengono serializzati in due momenti diversi, quindi la riesecuzione del mio comando, se io ho modificato un field, sarebbe una riesecuzione a vuoto, sul system non verrebbe riprodotta nessuna modifica. Poi, seconda cosa è, questo qui è più legato a come imposto il design. Nel momento in cui imposto il design, come l'ho impostato io, cioè che il system è, non ha, diciamo che cerco di mantenere, diciamo, la conoscenza del fatto che c'è prevedere completamente fuori, chiaramente se ci sono dei comandi che oltre a modificare il system compiono delle azioni su risorse esterne, tipo su un database relazionale o su un mail server, io devo impedire che queste azioni qui su risorse esterne siano rieseguite nel caso di riesecuzione del comando. Quindi se ho un sistema dove degli utenti si registrano, chiaramente e poi alla fine io invio un'email di conferma, chiaramente se mi dava giù un sistema e viene ritirato su, io e il comando viene eseguito, non devo rinviare l'email, quindi devo avere un meccanismo che impedisca questo rinvio, cioè questa riesecuzione dell'azione sulla risorsa esterna. La migrazione, allora qui la cosa è un po' delicata, perché effettivamente nel momento in cui tu serializzi dati su, diciamo, in stream di byte, gli strumenti che si usano sono abbastanza spartani. Diciamo che quando si aggiorna l'applicazione, l'obiettivo è migrare gli oggetti persistenti, quelli che sono sotto system, dalla versione attualmente in produzione a quella che si vuole mettere in produzione. Allora, una prima, diciamo, nota da fare è che i problemi che queste librerie di persistenza hanno sono gli stessi problemi che hanno, diciamo, le librerie di serializzazione su cui si basano. Quindi questi problemi qui praticamente ci sono in tutti, diciamo, i sistemi di persistenza di cui ha parlato anche Ugo. Quindi qualsiasi procedura di migrazione per oggetti serializzati, diciamo, può essere usata in prevedere, può essere usata in tutte quelle librerie che ha presentato Ugo. Per quanto riguarda Java, c'è una procedura di deserializzazione che comunque è molto potente e, diciamo, che è spartana, però, diciamo, permette di deserializzare gli oggetti in modo abbastanza comodo. Allora, chiaramente il meccanismo è un algoritmo depth first, quindi partendo dall'oggetto che è stato scritto, lui ricostruisce ricorsivamente tutti i field che lo contengono. Praticamente per ogni oggetto che viene incontrato nello stream, in fase di deserializzazione vengono fatti questi tre step. Primo, viene controllata la corrispondenza del serial version UID tra la classe presente nella JVM e la classe dell'oggetto serializzato nello stream. Se questi due numeri non corrispondono, viene sollevata un'invalid exception. Il serial version UID di default è calcolato sui field della classe e da altre informazioni quasi sempre della classe. Quindi per poter far proseguire l'algoritmo di deserializzazione bisogna forzargli un valore, infatti noi teniamo fisso, diciamo, il valore 1L, in modo tale che comunque la procedura non sollevi queste eccezioni. Nel momento in cui, diciamo, è passato questo controllo, praticamente in Java viene istanziato l'oggetto utilizzando la classe della JVM senza invocare il costruttore, quindi praticamente i field vengono lasciati tutti a null o ai valori di default per i tipi primitivi. E poi nel terzo passo cerca di inizializzare i field uno a uno, leggendo, diciamo, i field dall'object input stream. Quindi se non sono cambiati Ok, quindi se dalla versione che attualmente è in produzione a quella che io sto migrando un oggetto, i field sono rimasti identici, allora la procedura può seguire senza problemi. Se sono cambiate a seconda del tipo di cambiamento, ci possono essere la scarsa exception, ovviamente se io ho cambiato il tipo del field, lui prova a fare il cast e mi sono fatto un'eccezione. Class not found exception, se nello stream c'è un oggetto che è di una classe che io ho spostato di package e quindi non trova più. Oppure ci possono essere dei field che vengono lasciati null perché praticamente non sono presenti nell'ambito di InfoStream e quindi rimangono vuoti. In quel caso io rischio di avere poi più avanti un null pointer exception perché quell'oggetto lì è parzialmente inizializzato. Allora, per risolvere questi problemi bisogna aggiungere il metodo readObject alla classe, insomma, al problema, e l'obiettivo di questa readObject è proprio migrare i dati nello stream in modo da avere un oggetto correttamente inizializzato. Allora, praticamente utilizzando Prevailer sul nostro progetto, noi abbiamo messo a punto una procedura che praticamente è un modo di procedere che ci viene incontro sul fatto che lo strumento è abbastanza spartano. Praticamente noi sul verso system facciamo una branch della versione di destinazione e su questa branch noi scriviamo codice che ha solo l'obiettivo di ottenere un nuovo snapshot della base dati, diciamo, verso cui noi vogliamo migrare, quindi esatto, abbiamo fatto la branch. Quindi noi prendiamo l'ultimo snapshot dal sistema da migrare e lavorando sulla branch cerchiamo di caricare questo snapshot. Quindi durante il caricamento verranno sollevate eccezioni per gli oggetti di cui sono cambiati i field. Uno ad uno risolviamo tutti i problemi scrivendo delle readObject. E bisogna considerare il fatto che nessuna delle modifiche fatte sul codice della branch deve essere riportata su web, perché chiaramente questo qui è codice mirato esclusivamente, diciamo, alla migrazione. Se necessario possiamo rendere pubblici i field di oggetti, qui può essere proprio necessario perché chiaramente è possibile che io i dati del mio oggetto siano stati spostati proprio da una classe o comunque le informazioni per poter inizializzare devo andare a prendere in una classe. Io chiaramente quando sviluppo SLED, che applico, diciamo così, cerco di applicare un certo design, evito di lasciare field pubblici e cose del genere, però qui chiaramente l'obiettivo è migrare, io sulla branch comunque ci lavoro poco e quindi mi permetto anche di fare, diciamo, di queste cose. Quindi appunto si sta lavorando specificamente sulla migrazione. È un'attività che comunque quella di migrazione si chiude abbastanza in fretta, cioè al massimo tutta la procedura ci impiega uno di persone a fare una settimana, ma proprio a esagerare. Non viene scritto molto codice, cioè proprio sono solo read object scritte sulle classi che hanno avuto dei problemi. Noi in SpeedRacking generalmente scriviamo una decina di read object, abbiamo avuto un massimo di 18. L'importante attualmente mentre si fa questa attività di migrazione è non cambiare i field della branch rispetto alla versione sulla header da cui abbiamo migrato, perché se li tocchi poi la versione sulla header non sarà in grado di caricare, diciamo, il nuovo snapshot. Quando tutti i problemi sono stati risolti, noi verifichiamo che il nuovo snapshot sia corretto e completo. Questa è una cosa che facciamo per assicurarci, diciamo. Quindi facciamo dei dump testuali dei dati che sia prima della migrazione che dopo la migrazione e poi facciamo un confronto dei dump verificando che non siano stati persi dei dati e tutti i field siano inizializzati correttamente. Fatta questa verifica prendiamo un nuovo snapshot con la versione sulla branch e poi caricherichiamo questo snapshot con la versione di destinazione, quella che, diciamo, che io devo mettere in produzione. Qui attualmente ho fatto anche un esempio qui. Allora, account attualmente, che è il mio system, ha diciamo, un integer e una lista di stringhe come, diciamo, dati persistenti. Se io sviluppando arrivo a cambiare diciamo, il mio account. adesso sono, non ho più un integer ma ho un float, e la lista di stringhe è diventata una lista di command description, dove la description contiene la stringa di prima e l'istante in cui è situata l'operazione. Quindi qui tiro giù il sistema vecchio, avevo preso uno snapshot come ultima azione, quindi se adesso lancio la mia applicazione viene proprio sollevata un'eccezione, in questo caso mi dice proprio guarda che cannot assign an instance of integer to a field, its balance che è di tipo float. Quindi qui è proprio la read object che mi segnala che c'è stato un problema. Quindi io in questo caso devo aggiungere un read object su account. Su account c'è questa read object qui, quindi quando la procedura di deserializzazione arriva a invocare la read object, l'oggetto account è stato istanziato, però ha i due campi a null. Qui la read object prende un object in toString, io a questo string chiedo di dammi i fields di questo oggetto, e poi io devo accedere in modo puntuale, quindi dichiarando il nome del fizz che voglio leggere, e naturalmente io so che tipo era sullo snapshot, e quindi gli passo eventualmente un valore di default e dopo lo casto e mettendo in una variabile diciamo di metodo. Poi una volta che ho tirato fuori il metodo diciamo vecchio, posso inizializzare io qui dentro l'object il field istanziando il float, passandogli il valore. Stessa cosa per la lista dei movimenti, io qui so che erano una lista di stringhe, quindi leggo its movement description come lista di stringhe, dopo istanzio il field con una nuova list di command description e poi iterando la riempo con command description dove passo i valori letti e la data di ora. Ok, quindi se io adesso eseguo il sistema, lui mi ha caricato, mi ha migrato i dati, quindi adesso posso accedere ai dati che erano stati presi con la vecchia versione alla nuova, posso leggerli e tutti i campi sono inizializzati correttamente. Io adesso prendo uno snapshot, posso uscire, e quindi se adesso ritorno sulla versione verso cui volevo migrare, adesso questa versione è in grado di leggermi lo snapshot nuovo. Okay. Quindi posso eseguire le mie operazioni. Quindi fondamentalmente in questo modo noi migriamo i dati. Scusa, la serializzazione è stata fatta questa come scelta, quindi uno poi può scegliere un meccanismo di serializzazione diverso da quello di Java o prima di... Allora, diciamo che Prevailer offre anche la serializzazione dello snapshot in XML. Prima offriva Scaling, poi è passato a Xtreme, che ovviamente ci sembra che non è fatto meglio. Diciamo che noi lo usiamo più come export dei dati, nel senso che il salvataggio dei dati lo facciamo sempre in questo modo, okay, con questa procedura qui. Quindi lo snapshot è sempre binario. Quando abbiamo bisogno di esportare i dati per fare magari darci un'occhiata in un altro modo, istanziamo un prevailer usando Xtreme e quindi poi carichiamo quello da Xtreme e poi lo serializziamo con. Perché mi domandavo se serializzando in XML uno posso fare una procedura offline di migrazione dei dati da un formato XML a un altro. Diciamo che noi io personalmente trovo più semplice usare questa procedura qui che una procedura in XML, perché cioè, ad esempio in questo caso qui io ho scritto un read object, diciamo che erano 10 righe di codice, no? Supponiamo che io ho, diciamo, la mia parte applicativa riguarda una sessantina di classi, io devo migrare, devo aggiungere il read object solo dove abbiamo modificato i field. Quindi io, se ho stravolto i metodi di tutto, diciamo, tutte le modifiche sui metodi non comportano nessuna read object, praticamente è solo la dinamica. E quindi generalmente sono poche le read object che devono scrivere. Nel momento in cui tu invece esporti in XML e poi ricrei in XML, allora devi avere, diciamo, devi convertire questo XML dalla versione attuale a quella verso cui devi migrare, quindi eventualmente devi aggiungere field dove mancano, devi spostare valori. Poi qui hai il meccanismo, diciamo, depth first che dicevo prima, di Java, che apparentemente lui, partendo dal system, apparentemente si naviga tutto e, diciamo, ti ricostruisce tutto. Lì, in quel caso lì, devi farlo tu. Quindi diciamo che il meccanismo non è proprio semplice. Cioè, secondo me, io mi trovo meglio a utilizzare questo. No, comunque, il fatto di XML è stato fatto proprio apposta. Cioè, la serie di testo su XML è stata fatta in realtà, il sistema loro è interessante sicuramente, però la serenza su XML è stata fatta proprio per facilitare la migrazione. Così si serenza su XML e poi fa un XSL verso la cosa nuova. Cioè, è quello il motivo per cui esiste. Cioè, ClassWest la mise proprio per fare quello, poi magari il sistema loro è più semplice. Però magari sì, devi fare un po' di cose, no? Invece là è proprio facile, insomma, c'ha l'XML brutale, lo prendi, lo trasformi e c'hai il nuovo database. Sì, qui è collegato al fatto che noi personalmente, diciamo, preferiamo questa procedura qui perché non abbiamo grosse conoscenze, cioè sull'XML proprio di trasformazione noi facciamo tanti, quindi poi il vantaggio che dà questa procedura qui, che è uno sviluppatore Java, diciamo, che conosce un po' il meccanismo di serializzazione, come funziona il class loader e queste cose qui, riesce a farlo, diciamo, senza dover andare a imparare anche il SPAC e tutto il resto, perché comunque poi alla fine, cioè, per fare, diciamo, la migrazione dall'altra parte devi conoscere quelle, devi essere in grado di manipolare un XML. Tante classi che fate per la migrazione poi le tenete via, tra virgolette, allora noi, perché in un futuro, cioè, praticamente in questo caso qui, nel caso nostro, siccome noi attualmente ispitare che è un progetto interno e di cui c'è solo un'istanza in produzione, quindi noi praticamente il codice di migrazione lo teniamo solo sulla branch, quindi sull'edge non c'è, perché comunque noi stabiliamo il giorno, fermiamo il sistema, scriviamo le read object per fare la migrazione di quello snapshot in quel momento e poi torniamo sull'edge e andiamo a sviluppare. Ad esempio, Sun, ad esempio, se si va a vedere sul JDK 1.5, ad esempio, mi sembra su Calendar, avevo visto, c'ha delle read object che praticamente sono eseguite nel momento in cui uno passa dal JDK 1.4.2 al 1.5, sono eseguite on the fly, e lì prende come funziona il meccanismo. Non possono usare il serial version ID perché quello deve essere chiamato a un valore costante, se no per partire dal gestione. Loro hanno messo un altro, non un long, un integer che indica la versione della classe, e quando vedono che la versione deserializzata è la N e quella invece nel clusore è la M, applicano un pezzo di codice per fare la migrazione. Quindi c'è una read object che è in grado di migrare da qualsiasi, da una versione a tutte quelle successive. Io ho dato un'occhiata e mi sembra che funzioni così, però io non lo sapevo. Sì, diciamo che. Comunque noi nel nostro caso l'abbiamo in questo modo. Tecnicamente se uno ha un prodotto, per cui ha in giro n versioni, quindi c'è gente che magari passa dalla 1.0 alla 5, uno che passa, quindi deve essere possibile fare migrazioni da più versioni alle successive, allora perché a caso lì sulla head del version system tu ti devi tenere anche il codice di migrazione. Ok, grandi no, perché diciamo che l'importante, diciamo che è che nel momento in cui tu dici ok vado in produzione, tu prendi uno snapshot e poi ti tiri giù il sistema, cioè nel momento in cui tu vuoi fare la migrazione, ok, tu sai che tu dici adesso, quindi in quel modo lì non ci sono comandi da eseguire, c'è solo lo snapshot da migrare. Allora, per quanto riguarda, qui ho fatto un po' il confronto fra librerie di persistenza e il database relazionale. Allora, librerie di persistenza mi riferisco sempre a Prevailer e Fratelli, diciamo, non tanto più. Diciamo che poi certi discorsi valgono anche diciamo, per gli altri sistemi di persistenza insomma, alternativi. Allora, qui chiaramente i database relazionali rispettano, chiaramente garantiscono la seed model, quindi la comunità, la persistenza, il isolation, probabilità sono delle operazioni, ci sono dimensioni per raggiungere fino a terabyte, poi ti garantiscono numeri elevati di accessi e transazioni concorrenti, c'è un linguaggio di query che è potente e performante e dati ormai su un database relazionale, su un database relazionale sono fruibili nelle modi, cioè tu ci puoi accedere data codice da applicazioni grafiche varie diciamo, che permettono comunque di soddisfare i dati e poi ormai anche via web ci sono tanti di quei prodotti semi lavorati prodotti che permettono di attaccare DB e diciamo, i dati sono in linea. I contro quali sono? Allora, se io utilizzo un linguaggio object-oriented, un linguaggio senza, diciamo, usando la connessione DB diretta, c'è il problema diciamo, di cui parlavamo anche prima Ugo, che ovviamente mi devo mantenere DB schema e mi devo mantenere manualmente il mapping delle tabelle classiche, quindi c'è il problema del parallel crossing. Inoltre ho anche il problema che negli oggetti di business, ok, io ho le logiche di business e l'accesso al database, cioè chiaramente nel momento in cui io inizio a usare un database relazionale, generalmente io non faccio che prima di tirare su account mi tiro su tutto il DB, ok, ma io praticamente usando account, quando vado a modificare i dati, cambio il balance, apro la connessione e cambio sul record, sul DB, il balance. Quindi l'accesso al database convive nelle stesse classi che contengono le logiche di business della mia applicazione. Se uso un linguaggio object-oriented più una libreria di mapping object relational, quindi prevedere e fratelli vari, sul mapping da un lato la situazione è migliorata, nel senso che da un lato la situazione è migliorata, nel senso che si dichiara solo il mapping tra classi e tabelle e il DB schema viene generato automaticamente e le modifiche sugli oggetti sono riportate automaticamente sul DB senza che io devo fare il mapping dei valori. Però dall'altro lato le classi di mapping diventano molto facilmente più complesse e più rigide. Questo perché? Perché la situazione ideale è che io ho un database per la mia applicazione, no? Quindi io cambio, il cliente mi dice di fare una modifica sulla mia applicazione, io cambio la classe, rigenero il DB schema e quindi ho il database nuovo. Però questa è una situazione ideale. Purtroppo generalmente si parte da un database già esistente, perché il cliente dice guarda questo è il database, scrivi qui, e quindi la mia applicazione magari deve fare pochissime cose e io mi ritrovo con 20 oggetti che comunque non c'entrano niente con la mia applicazione, ok? E mi devo tenere anche quelle dipendenze, diciamo, fra questi oggetti non posso cambiare perché il database è quello. Oppure, diciamo, l'alternativa è all'inizio si ha che il database è a disposizione della mia applicazione, ma poi altre applicazioni iniziano a andare sullo stesso database e quindi ho proprio una dipendenza, diciamo, n applicazioni su uno stesso database. Cioè, i clienti vogliono un database relazionale, uno dei motivi per cui lo vogliono è perché serve per condividere i dati fra proprie applicazioni. Cioè, se io ho un sistema, io offro un certo sistema a pagamento, poi io ho il database su cui vi è scritto mentre gli utenti fruiscono del mio servizio e poi ho dentro un sistema di back office che genera il billing dei servizi che ho offerto. Vedete, sono due applicazioni separate, il database è proprio usato da, diciamo, punto di comunicazione. Ok? E quindi io qui, usando queste librerie di mapping, mentre se non uso una libreria di mapping, io mi posso scrivere i miei oggetti che caricano dal DB solo le mie classi che caricano dal DB solo i dati che mi interessano e basta. Io con queste librerie di mapping mi devo portare più o meno su, diciamo, tutte le tabelle. Qui poi dipende, nel senso che in certi casi magari posso escludere parti del DB. Però generalmente, per esempio, noi un problema che abbiamo ora è che abbiamo un database che ci è stato dato, che dovevamo utilizzare così com'era, perché dovevamo andare a appoggiarci, diciamo, su un'applicazione, diciamo, un'applicazione già esistente. Il problema è che noi dobbiamo fare un'applicazione che è solo in lingua italiana, il database prevede in multilingua, quindi tutte le informazioni testuali sono state strutturate in modo tale che sul database io ho per ogni tipo di entità la descrizione in più lingue. Noi naturalmente non possiamo svincolarci sui nostri oggetti da questo dettaglio, da questa caratteristica del DB. Quindi abbiamo un fracco di oggetti di cui noi faremo anche a meno. Avendo usato Hibernate abbiamo questo problema qui. Poi abbiamo tutti i vantaggi che offre comunque Hibernate, ovviamente. Però in questo caso qui ci ha dato questo, diciamo, svantaggio. Cioè senza Hibernate, io in questo caso ho degli oggetti, facciamo degli oggetti che con query SQL praticamente vanno a leggere solo le informazioni che mi interessano, e quindi poi chiaramente lì glielo scrivo a mano io il codice, diciamo, lo script SQL, quindi da un lato ho uno svantaggio, ho lo svantaggio che mi devo scrivere, però praticamente tiro fuori un oggetto che contiene praticamente il mio oggetto di business, quindi l'oggetto che poi io, il mio broker, tira fuori, è un oggetto che è fatto, diciamo, su misura per la mia applicazione, ok? No, ok, questo mi piace, devo dire, come hai detto, uno svantaggio, diciamo, rispetto all'utilizzo di un framework, un file metric tra gli oggetti e il database, è il fatto che in alcuni casi io non sono l'unico owner, quantomeno, della base dati, e la base dati viene usata come scambio tra applicazioni diverse. Se io invece non usassi il database relazionale, dovessi usare, prevenire, questo problema come lo risolvo? Infatti quel problema lì, in quel caso lì non usi prevedere, cioè nel momento in cui un cliente ti dice guarda che io, tu mi fai un'applicazione che poi dati devono essere fruibili, cioè lì c'è, cioè, il gioco che uno può fare, ok, è che spesso si tende a partizionare le applicazioni, cioè più di quanto uno debba effettivamente fare, no? Infatti, il sistema che io devo dare al mio cliente, che prevede una fase in cui gli utenti fruiscono dei servizi e poi una fase di billing, ok, e lui mi dice no, io voglio un database relazionale e non voglio usare prevedere perché ho due applicazioni che devono condividere DB, io quello che gli posso dire è ma perché non facciamo un'unica applicazione che offre il servizio e fa il billing, quindi facendo un'unica applicazione, ok, io ho, diciamo, non ho più problema. Chiaramente qui si vede i limiti di prevedere, poi penso anche, poi dipende comunque anche di altri casi, comunque è il caso in cui comunque avendo gli oggetti con i dati, le logiche di business e le informazioni da salvare coesistono nelle stesse classi, chiaramente tu non puoi riutilizzare gli stessi dati in altre logiche di business, ok? Posso aggiungere una cosa a questo, però questo è un caso atipico, perché vuol dire che tu stai usando il database per fare integrazione, che è una cosa che succede spesso, ma è comunque un approccio sbagliato, cioè nel senso che il database di solito è il peggior modo per fare integrazione. È vero che è una delle cose che succede più spesso, però insomma chiaramente se tu usi un database per fare integrazione, il database lo può fare perché è una cosa di solito remotizzabile, cioè il linguaggio eccetera, e quindi lo fai con un sistema di più basso livello come questo, non lo fai, però secondo me non dovresti neanche utilizzare un database. Per fare integrazione utilizzi un sistema di messaggistica. Se c'è un sistema di messaggistica ti ritorna in auge volendo anche un sistema di persistenza diverso. Se io e AI non lo faccio col database, lo faccio magari con GMS, ma se lo faccio con GMS poi il fatto che al centro c'è un database relazionale è un'altra cosa, non è più un problema. Non so se diciamo che spesso è un problema in cui ci scontra, che, diciamo, che i clienti spesso... Tutti usano il database relazionale, il database relazionale, vale, almeno questo è quello che penso io, il database relazionale è ottimo per gestire tanti dati dove tanta gente vuole andare a vedere cose di quei dati che neanche tu che hai fatto la base dati lo sapevi, non vuole fare relazioni nuove, eccetera. Cioè questo è lo scopo del database. Poi il problema è che tutti lo usano per fare altre cose. Cioè lo usano per fare integrazione con applicazioni che non è quello per cui è nato. E poi nascono tutti questi problemi qua. Cioè se tu il database lo usi perché fai una base dati dove chiunque si attacca magari da internet e vuole fare delle query libere, in SQL o meno, no? Più o meno libere, cose, chiaramente è il lavoro suo, no? O un database a oggetti, ma comunque è il lavoro proprio di un database completo, un RDBM, un DBMS che ha tutte le cose a contorno. Se tu lo usi invece perché due applicazioni diverse, uno scrive i dati, quell'altro se li legge, poi ce li riscrive, quell'altro se li, quindi lo usi per fare integrazione, è un pessimo uso, però è uno degli usi più comuni. Certo. Però mi viene in mente, rispetto al discorso del di solito, comunque poi un'applicazione si tratta di una serie di interfacce di accesso per poter cambiare dentro. In questo caso, se io volessi avere lo stato della mia applicazione prima di andare a cambiare i dati, mi devo fare una consolina. Cioè. Ma però sono proprio due, cioè il fatto è non bisogna, cioè secondo me almeno non bisogna confondere, sono proprio soluzioni su livelli diversi, quindi quando c'è bisogno di usare un database vero, cioè ce n'è bisogno e non c'è una soluzione altera, che sia il database relazionale, poi quella è una questione, no? O un LDAP, perché l'LDAP pure fa le stesse cose. Se invece tu, il problema almeno quello che vedo io è che molto spesso questi database sono dei cannoni che vengono modellizzati per ammazzare le mosche. E allora lì ci stanno tutta una serie di soluzioni alternative. Il fatto è che sembra magari che queste soluzioni alternative siano naif, ma invece tante, cioè magari su 10 volte ce ne stanno 4 o 5 in cui potresti fare a meno del database. No, una ogni tanto, insomma ce ne stanno tante. Le database sono proprio over design alla grande, perché fanno tutto loro, tu li metti là, t'appoggi, però è una semplificazione che poi paghi, insomma. Cioè tu all'inizio è facile, prendi l'amministratore, fai 4 tabelle, poi un giorno qualcuno la pagherà, poi magari non sei tu perché è uno che arriva dopo qualche anno, vabbè, magari sì, però ah, è vero, questo l'abbiamo visto da un cliente il motivo per fare una cosa del genere è che non conoscevano già, allora magari ci sono le logiche che effettivamente non in quel caso no, perché poi l'applicazione l'abbiamo un po' fuori standard. No, abbiamo fatto un porting, quindi abbiamo visto non c'era nessun motivo, cioè questi sono i contesti sul database, nient'altro. Sì, però è comune, è una cosa che succede troppo spesso. Poi la conseguenza che i programmatori hanno impiegato sulla gestione originale è la norma, insomma, almeno questo è quello che vedo io qua, è la norma, è che trovi team di 5, 6, 7 persone che stanno facendo una cosa che se tu ti astrai un attimo da quello che stanno facendo è totalmente inutile. Cioè, fanno una cosa che poteva essere evitata completamente. Non so come non facciano a frustrarsi e a uccidersi dopo, però. Poi per quanto riguarda appunto il linguaggio visivo oriente che usano questi librerie di mapping, altri effetti collaterali, diciamo che sono che quando si va in produzione il DB poi diventa difficilmente modificabile, comunque poi alla fine ci sono, c'è tutta una gerarchia di persone in BA che tu che sviluppi codice diciamo conti meno, perciò poi alla fine con queste librerie di mapping tu devi mantenere una certa corrispondenza tra oggetto e tabella, no? e se il cliente ti chiede delle modifiche che prevedono delle, diciamo, il cambiamento del codice, no? Chiaramente tu implementi le tue logiche e a un certo punto ti ritrovi a livello di anche database. Chiaramente lì iniziano anche ad esserci un po' di problemi, o comunque sono un po' restii, diciamo, in certi casi. Perché loro sono abituati, comunque lo sviluppatore può spesso mettere a posto le cose senza che si andare a toccare il DB. Poi, effetti collaterali. Allora, nel caso di Hibernate, tu le classi le scrivi come se ad esempio diciamo, usando hash table, list e oggetti simili sono comunque, e poi alla fine durante il caricamento del bytecode diciamo, il bytecode viene cambiato, comunque c'è un raggruppamento per cui poi vengono aggiunti fields e viene messo su un meccanismo di lazy construction, o vengono tirati subito, poi tu praticamente utilizzi la tua classe come se diciamo, utilizzasse ancora list, scegli tutto, invece poi la classe va sul DB. Chiaramente per nel caso in cui tu nel tuo codice hai usato Reflection per fare magari dei ragionamenti sui field o cose del genere, lì naturalmente il sistema ha dei comportamenti che non sono previsibili, purtroppo ci è capitato. E poi un altro effetto collaterale è che impongono dei vincoli sul DB. Chiaramente Hibernate, da quello che ho capito, è fortemente sconsigliato avere delle tabelle con chiavi multiple, cioè con più colonne in chiave. E inoltre un altro aspetto contrario, diciamo così, ai database relazionali in generale, è che per modifiche anche abbastanza contenute del DB schema bisogna avere delle conoscenze abbastanza avanzate, diciamo, di SQL, migrazione, spegnere costruenze, ripetere su, cioè tutte cose che un DBA che conosce bene SQL si sa fare. Magari in situazioni dove i progetti sono, diciamo così, più naif, comunque più alternativi, il budget è limitato, quindi c'è lo sviluppatore Java, non c'è il DBA così. Poi alla fine, chiaramente, se lo sviluppatore mi chiede, ma guarda, visto che ci sei, fammi anche il DBA, fammi anche il database, poi tu glielo fai e dopo lo devi anche mantenere. Ma fare progettare uno schema di database è una cosa, poi riuscire a fare le migrazioni in dati comunque può anche diventare abbastanza complesso. Allora, le librerie di persistenza, quindi come pro, hanno, chiaramente lo sviluppo è più agile, cioè non c'è nessun mapping da mantenere e quindi la malleabilità del linguaggio può essere sfruttata a pieno. Cioè, diciamo, gli ambienti di sviluppo tipo Eclipse, IntelliJ, tendono a offrire sempre di più meccanismi per cui tu modifichi il codice, lo rifattorizzi, quindi senza cambiare la funzionalità, molto facilmente, no? Sposti sul metodo, sposti di qui, sposti là. E poi, soprattutto scrivendo i test, diciamo che questa cosa qui è molto utile, quindi poi tu fai le modifiche molto rapidamente, poi esegui i test, tutto è a posto, tutto ok. Chiaramente mantenere un file di mapping o cose del genere è un fenomeno, come avere una Ferrari e deve andare in testa, non può andare oltre. Perché chiaramente da un lato hai un'idea che è di una potenzialità pauvosa, dall'altro devi mantenere un mapping sul DB che praticamente ti rallenta tutto. Poi, il linguaggio di query chiaramente è il linguaggio di programmazione stesso, quindi per essere potente è potente, perché comunque ormai tutti i linguaggi offrono delle collection tale per cui poi tu riesci a fare query abbastanza articolate. Non è molto performante, bisogna tenere conto di una cosa, che fare il confronto delle performance fra, diciamo, un accesso a una tabella e un accesso a una collezione è un po' sbagliato, perché generalmente tu nella tua applicazione comunque organizzi i dati in modo tale che in un certo senso siano già partizionati secondo le logiche del tuo business, quindi inizi ad avere problemi se ricadi nel caso che dicevo prima Ugo, cioè se tu hai dei clienti, diciamo degli utenti del tuo sistema che devono poter fare, diciamo così, query che tu non puoi immaginare, quindi tu non puoi prevedere, no? Quindi loro devono avere la massima, diciamo, disponibilità a livello di linguaggio di query, allora è chiaro che prevedere simili non possono andare bene, perché qui le query le scrivi tu in Java e sono quelle, ok? Però se tu non hai queste necessità e invece hai semplicemente bisogno di ristrutturare i dati tale per cui hai una banca con l'account dove ogni account ha dentro le sue transazioni e devi mostrare queste, praticamente navigando i dati sono strutturati in modo tale che comunque alla fine è semplice andarli a reperire. Poi lo sviluppo è più agile, quindi il design è più semplice, quindi oggetti persistenti con solo logiche di business, quindi il database è completamente letto all'inizio, quindi gli oggetti non hanno costruito la persistenza. Lo unit test degli oggetti persistenti è più semplice, quindi durante i test vengono allocati solo in memoria, cioè io, quindi durante i test insomma, è tutto volatile. Ma city model è rispettato, diciamo che qui diciamo, è fra virgolette rispettato, nel senso che è ad in mente il database relazionale, comunque ti dà delle garanzie, diciamo che il database, quando usa un DB relazionale c'è l'approccio che chi fa il DBA, diciamo così, metterà diciamo, i constraints giusti, tutto giusto, stare per cui i dati sono integri. Poi lo sviluppatore può fare tutto quello, diciamo, può connettersi e modificare. Se poi lo sviluppatore sbaglia, diciamo, l'applicazione lancia eccezioni, comunque i dati sono integri, il principio è quello. Quindi, diciamo così, viene, ha più diritto, diciamo, c'è un certo approccio protettivo nei confronti del DB. Però, in fin dei conti, anche gli sviluppatori, diciamo, comunque, possono verificare che le loro applicazioni, tra virgolette, siano, abbiano un comportamento sicuro. Quindi, sul fatto che la CD model sia rispettato, l'AtomIT, diciamo, sono tutte rispettate. Allora, per quanto riguarda il fatto che le modifiche siano atomiche, qui dipende un po' poi dalla libreria che usi. Nel caso di Prevailer c'è un meccanismo tale per cui se viene sollevata un'eccezione, che lui rubrica il system a quello prima dell'inizio del comando. La consistenza, quella lì, chiaramente è a descrizione, diciamo, dello sviluppatore, nel senso che non ci sono dei constraints qui. Qui i comandi agiscono, il comando viene iniziato e viene finito. Chiaramente il comando deve fare in modo che lo stato del system sia sempre consistente, cioè quindi non deve lasciare il system in un stato inconsistente. Isolation te lo garantisce prevede, i comandi sono eseguiti in sequenza, cioè quindi non ci possono essere mai due comandi eseguiti parallelamente. Il fatto che siano durabili lo garantisce il fatto che tu prendi snapshot, esegui dei comandi che sono in translation only e quindi arrestati l'applicazione vengono eseguiti tutti. L'accesso e la modifica dati molto veloce, cioè dal sito di Prevailer, sono da prendere con le pinze, secondo me. Comunque loro dicono, cioè qui ho tutto in memoria, quindi dicono comunque via JDBC sono 9.000 volte più veloce rispetto a Node.js Oracle e 3.000 volte più veloce rispetto a MySQL. Chiaramente qui suppongo che siano accessi puntuali. Chiaramente se inizio a fare il confronto fra query, cioè fra il fatto che io devo tirare fuori i dati e elaborarli, chiaramente lì il database avrebbe il vantaggio che l'SQL comunque è molto performante, però come dicevo prima, nel caso di Java se inizia a avere problemi del genere, ok, tu introduci quello che in Java è un indice, cioè introduci una collezione che diciamo, mantiene i dati che tu vuoi che diciamo, la selector ti ritorni. Okay? Comunque, quei confronti sono fatti su database completamente che scia di memoria. Per la cronaca, cioè quelli che sono database che non accedono neanche a disco, tanto per rendere i numeri ancora più particolari, cioè quel database sono completamente che scelto loro, però per rendere la cosa paritetica. HSQL non c'è, HSQL di tipo andare completamente in memoria. HSQL fa proprio, poi basta, non lo ti insegniamo bene. Sì, anche non c'è un paragone, salva anche sul fatto. Sì, facciamo dei test che usiamo un database relazionale, usiamo HSQLDB, perché comunque un database embedded, io inizio il test, mi lo tiro su, istanzio, diciamo, creo eventualmente le tabelle, eseguo il mio test e poi quando lo ritiro giù, diciamo, il database sparisce, cioè tutto in memoria. Okay. È sicuramente più veloce perché non c'è l'interprete SQL. Mm. Cioè l'interprete SQL è comunque una cosa che va eseguita, fa parsing eccetera, quindi prima di arrivare alle cose deve fare tutto un lavoro, quindi sì, comunque è impossibile farlo più veloce. Scusa, sono una domanda, ma quanto incide sulla prestazione la scrittura del log dei comandi? Allora, quello incide molto poco. Allora, il log dei comandi adesso qui purtroppo non si è visto, praticamente un Prevailer ha un meccanismo tale per cui lui adesso non si vede, lui come funziona? Qui lui dà una sequenza ai file, no? Quindi li numera. Praticamente nel momento in cui adesso è ripartito, lui ha creato lo snapshot 3, lo snapshot 2, numerato 2. Se io adesso eseguo un comando. Ok, adesso mi ha creato un nuovo file di transazione con il transaction log numero 3. Lui funziona in questo modo, lui praticamente legge lo snapshot col numero più alto, in questo caso ce n'è solo uno, ed è 2, e poi riesegue tutti i file di transaction log che hanno un numero più alto in sequenza, quindi sarebbe 3, 4, 5, 6, no? Lui i file di transaction log non ha un unico file di transaction log, ma ne crea tanti piccoli, in modo tale che anche la scrittura sia molto rapida, ok? Quindi praticamente runtime con persistenza su, diciamo, la procedura è molto rapida. Chiaramente c'è il problema di quando viene preso uno snapshot. Ovviamente lo snapshot, a seconda della tua applicazione, devi scegliere il momento che, in cui il sistema è poco carico, ok? Quindi tipo noi in tracking durante la notte si è durato l'impronta perché non viene preso uno snapshot. Ok. Però per quanto riguarda il transaction log è veramente rapido, perché sono tanti file. Anch'io sono dimenticato. Il transaction log sono tutti file molto piccoli e quindi diciamo, ti garantisce che la scrittura è molto rapida. E comunque come dire transazionale, cioè nel momento in cui io apri quel comando, se lui non riesce sì, a scrivere, allora, mi ritorna indietro in eccezione, quindi mi rollback lo snapshot. Allora, lui sì, non considera il caso di non riuscire a scrivere lo snapshot sopra, lui il file l'ha sempre aperto praticamente e lo continua a scrivere. Per quello che cioè lui il rollback te lo ipotizza, cioè te lo esegue nel caso in cui l'esecuzione del tuo comando solleva un'eccezione, no? Ok, quindi se tu nel tuo comando hai bisogno a un certo punto di rollbackare, tu fai un meccanismo tale per cui viene sollevato un'eccezione e lui ti rollbacka il system a prima dell'inizio dell'esecuzione del comando. Però la scrittura viene fatta terminata di eseguire il comando, lui lo scrive su file. Cioè, la mia domanda è se dovesse fallire per l'ultimo primo o perdi tutto. Sì, in quel caso lì perderesti diciamo, il salvataggio di quel comando. Perché che in quel caso perderesti solo quel comando, perché poi comunque lui si blocca, quindi comunque il tuo scrittore. Adesso io sinceramente questo preciso problema non lo conosco. Però comunque il concetto è comunque. Tentri e fallisce uno, dopo probabilmente ti segnala che ha dei problemi. Allora, quindi. Poi un altro vantaggio è che la migrazione, nel caso in cui si utilizza il meccanismo di serializzazione e deserializzazione, è scritto nel linguaggio di programmazione. Quindi una volta capito il meccanismo delle read object, può essere tranquillamente svolta dagli sviluppatori. Come contro, chiaramente, che la base dati non può essere enorme, perché è tenuta tutta in memoria. Ci può essere solo un processo che modifica la base dati e eventualmente più processi che replicano sono le stesse informazioni, perché chiaramente qui il processo, la GVM, in caso di prevedere, che salva lo snapshot, può essere uno solo, perché chiaramente il file ci deve essere un unico file snapshot da cui poi vi interessa. È possibile avere più processi che replicano. Poi c'è il problema che dicevamo prima, cioè la scusa, i processi che replicano quindi che cosa vuol dire? L'owner è uno solo. In quel caso vuol dire che praticamente lui ha un meccanismo tale per cui in ascolto sulle esecuzioni dei comandi, oltre ad esserci la stessa GVM, ci possono essere altre GVM su cui vengono passati i comandi da eseguire, no? Quindi in quel caso praticamente ho più GVM tutte, diciamo così, con in memoria uno snapshot, un system, diciamo così, allineato, ok? Quindi in lettura posso accedere a qualsiasi di queste GVM in lettura. In modifica devo accedere all'unica GVM che ha il diritto di salvare uno snapshot, che chiaramente è particolarmente. Io questa parte qui noi attualmente non la conosco molto bene perché non l'abbiamo utilizzata in ISP tracking, attualmente è un sistema che gira dentro Tomcat con diciamo, un unico Tomcat. Okay? Però diciamo, c'è questo meccanismo soprattutto con Threadripper 2 che è stato anche abbastanza rifatto e migliorato, che comunque ti permette di fare questo, diciamo. Ma poi comunque visto come è fatto, dovrebbe essere anche abbastanza semplice semmai rimotizzare i comandi. Cioè tipo questa applicazione qua se uno rimanda TCP da quando ci diciamo client. Che se io a un certo punto mi trovo ad avere un GVM che se, diciamo così, una cosa che io sarei, diciamo, verso cui tenderei è quella di fare in modo che i comandi siano istanziati da altri GVM, forse quello che intendevi tu, e poi per esempio ho un'unica GVM che sarebbe la GVM del DB, okay, che riceve i comandi e li esegue. Okay. In questo modo scarico dalla GVM che mi rappresenta il database il fatto di arrivare a distanziare il comando. Il comando lo ricevo via RMI piuttosto che altri meccanismi di serializzazione. Chiaramente qui conviene usare meccanismi di serializzazione tipo RMI, molto tale che comunque non ho parallel crossing, no? Perché non sono sempre oggetti serializzati e quindi diciamo, mantengo diciamo, l'agilità diciamo, nello sviluppo. Poi c'è il problema che dicevamo prima, base dati, la base dati è esclusiva dell'applicazione, no? Quindi il problema è che se ho il cliente inizia a dirmi guarda io voglio che i dati sono fruibili anche da quest'altra applicazione, chiaramente lì nessuno se viene fuori. Poi devo fare con GMS. Con? Devo fare con GMS. Sì. Fai in modo che questi che alla fine del GMS sono delle, alla fine sono dei comandi remoti, si può trattare come oggetti che vanno in giro. Sì, diciamo che se diciamo così, il problema ricade in quei clienti che per esempio usano il database, è il caso in cui sì, usano come il database come meccanismo di middleware di comunicazione. Il problema è quello, no? Quando il cliente si inquadra lì, ok, difficilmente lo riesci diciamo, a proporre sistemi del genere, a meno che diciamo, non ci siano. Ci sono dei casi dove comunque lo puoi utilizzare. E poi c'è chiaramente il problema che mancano viste da tabellare già pronte, chiaramente qui non si viene fuori, perché chiaramente ci sono tanti di quei tool, cioè chiaramente io sviluppatore già ci impiego poco a mostrarti i dati di un certo, diciamo, io nel caso di account faccio delle viste, ti risulta i dati, però nel momento in cui il cliente inizia a voler proprio, a voler poter avere delle viste tabellari già pronte o ancora peggio fare delle query su DB, allora veramente lì non puoi più usare un sistema di persistenza di questo tipo. Quindi consigli per l'uso, cioè praticamente quello che il contro riguardo a prevedere ovviamente sono legati al contesto dell'applicazione, cioè quando ho dati da salvare di dimensione contenuta e ad uso esclusivo dell'applicazione, allora io posso prendere in considerazione prevedere e anche quando posso avere un solo processo che mi modifica i dati e poi è soprattutto il caso in cui non ho molti visti da tabellare o linguaggi di query che devo offrire al cliente diciamo, per accedere ai dati, quindi in questi casi io posso prendere diciamo, in considerazione l'utilizzo di prevedere. Un'alternativa è che quando il cliente mi si inchioda sul fatto di dire no, io voglio che tu mi doni questa tabella perché poi c'è un'altra applicazione, perché comunque io se tu non metti sulla tabella dormo più tranquillo, allora in quel caso uno può valutare il fatto eventualmente di fare solo un export verso un database relazionale, cioè se la mia applicazione ha logiche di business abbastanza intricate dove solo quello che interessa al cliente è solo l'ultima fase in cui io il dato glielo salvo su DB, allora uno può fare diciamo, un'applicazione dove io uso prevedere diciamo, per eseguire tutto il mio comando e solo nell'ultima fase diciamo, vado a scrivere sul database. Chiaramente è difficile convincere il cliente. Come argomentazioni chiaramente uno può sempre portare che l'aumento dell'agilità diminuisce i costi di sviluppo e poi passare a un database relazionale è abbastanza semplice. Questo nel senso che se guardiamo la mia applicazione, cioè se io in account tracker commento 3 righe di codice, okay, quindi qui praticamente non lo faccio caricare da prevedere ma mi tengo solo quello che ho creato al volo e poi nel loop, nella execute request faccio in modo che non sia eseguito, diciamo, i comandi siano eseguiti solo per fare, io ho un sistema completamente volatile in memoria che non dipende adesso da nessun sistema di persistenza. io adesso a questo punto lo posso iniziare a modificare per inserirci l'utilizzo di un database razionale. Ok? Quindi diciamo che sfilare e prevedere è abbastanza semplice. Diciamo, e poi ovviamente è inserire il DB, comunque lo devi fare. Però nel momento in cui hai un buon design, comunque riesci a inserirlo. Oltretutto puoi inserire sia un DB utilizzo diretto che eventualmente utilizzare tool di mapping tipo Hibernate o cose del genere. Ma scusami, nel caso in cui uno volesse fare il passaggio dal prevailer a un database relazionale standard, tutti gli snapshot eccetera eccetera, come si fa a fare, diciamo, a travasare i dati da un contenitore all'altro? Ah, ok, quello lì ti devi fare tu un progettino Java, cioè un processo Java che praticamente si crea sul system e praticamente si legge i dati, diciamo, devi fare un progetto che fa la scansione di system, si legge i dati e li inserisce nel database. Sì, quello lì può essere già più macchinoso sicuramente. Cioè, se no metti transaction log in the blob di Oracle e così se ne... Esatto, lo vedi, cliente, è una tabella con un record che è il transaction log. E allora scusa, ci metti lo snapshot serializzato. Esatto. Le implementazioni, quindi c'è Java in prevedere, poi prendi e stai fatto il porting di tutti i linguaggi di programmazione, quindi c'è in Ruby, Commander Mnemonic, Common Lisp Prevalence, Delphi. C'è Delphi Object Prevalence Layer, Smalltalk, c'è Florida, c'è Prevere, Python, c'è PyPersist, c'è Perl, c'è Perl Prevere, solo uno che lavora in Perl può fare un numero del genere, e poi c'è Bamboo, diciamo, c'è Shark. Chiaramente per come è fatto il design di questa applicazione era molto semplice portarlo in altri linguaggi di programmazione. Comunque c'è sul sito di Prevere, www.prevedere.org, c'è una pagina con tutti i porting che sono fatti. Quindi per quanto riguarda il reference c'è il sito di Prevedere, e per quanto riguarda come funziona la migrazione, come funzionano le read object e le write object, c'è questo URL, diciamo, c'è questo tech tips fatto su come usare la serializzazione per applicazioni reali. Scusa. Posso? No, la mia domanda era, nel caso in cui abbiamo un database, cioè delle informazioni abbastanza gerarchizzate, cioè per esempio banca, conto corrente, fido e altre cose, e tutti i command li devo fare sempre partendo da banca, oppure sei riuscito a trovare un modo? No, i comandi li devi sempre fare partendo da banca. Diciamo che generalmente noi abbiamo messo su un sistema che fa il tracking, per fare il tracking, diciamo, della nostra attività di tracking e planning di progetti XP. E quindi noi praticamente dentro questo sistema creiamo progetti, poi inseriamo user story, creiamo iterazioni, dentro le user story ci sono dei task, con dentro per ogni task c'è l'effort, le stime, quindi è una struttura molto gerarchica. Gerarchizzata, poi cioè sono le iterazioni. Qui il gioco è, tu fai il design del tuo sistema ovviamente in modo tale che partendo dal system, come se fosse completamente volatile, in modo tale che partendo dal tuo system tu riesci, diciamo, a fare, diciamo, tutte le modifiche che devi fare. Quindi, diciamo, ad esempio nel nostro caso noi abbiamo un speed tracking, cioè tu puoi tirare fuori qualsiasi un progetto in base al nome, poi da un progetto puoi tirare fuori qualsiasi user story in base al nome, poi sull'user story puoi aggiungere effort, puoi aggiungere stime. Quindi tu, diciamo, che sviluppi tutto il tuo sistema in modo, diciamo, sulla base, diciamo, che le richieste del tuo cliente necessitano. Non è che per forza il command deve arrivare ad avere il reference all'oggetto ultimo, non è costretto. Cioè l'importante è che command possa lanciare l'azione, ok, che poi mi modifichi il progetto in fondo, per intenderci. Cioè io qui ho fatto l'esempio, ok, di account. Qui il account offre il metodo deposit, che praticamente mi permette di, passando un int e una stringa e una data di esecuzione, di effettuare il deposito. Il comando agisce direttamente su di lui, quindi deposit invoca proprio il metodo account deposit. Nel caso che io ho una banca, ho due alternative. O faccio in modo che banca pubblica il conto corrente, quindi poi io richiamo questo metodo, oppure posso fare che banca, io gli faccio un metodo deposit e quindi è lui che poi system va a fare la modifica del suo account. Quindi poi non devo per forza fare in modo okay, che i comandi possano raggiungere tutti, andare a avere un reference a tutti gli oggetti. Io devo fare in modo che partendo da system possa lanciare qualsiasi modifica. Sì, però cioè, mi sembra che stiamo finendo la programmazione procedurale. Cioè, per fare una modifica a un oggetto devo dare tutta la gerarchia, banca, account, tutte le varie informazioni, per dire chiama quel metodo di quello.